24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:20 minuti, eccoci cari ascoltatori, siamo qui in diretta su Radio 24 fino alle 9, siamo anche su Facebook, ci potete seguire, 24 mattino, la nostra pagina cresce sempre di più di contatti. E che dire, di che parliamo oggi nel nostro sondaggio? Beh, parliamo della stretta attualità, della Libia, di quello che sta succedendo in Libia. La domanda che ci poniamo è questa: l'Italia, secondo voi, conviene di più? Per l'Italia è meglio una Libia con Gheddafi o senza Gheddafi? Insomma, che ne sarà della Libia quando, visto che stiamo assistendo, pare, agli ultimi atti di un regime, ci sarà il dopo Gheddafi? Votate su radio24.it, ne parleremo più avanti. Questo è anche il tema che trovate certamente in apertura su tutti i giornali che andiamo a sfogliare. In primo piano. Martedì 22 febbraio c'è davvero moltissimo di Libia oggi, con alcuni quotidiani che propongono anche lo stesso titolo di apertura. Il più gettonato è questo, sul Sole 24 Ore: Gheddafi bombarda la folla. È lo stesso titolo che troviamo, identico, anche sulla Stampa. E poi il Corriere: Libia nel caos, bombe sulla folla. Per la Repubblica: in Libia esplode la guerra civile. Per il Fatto: Libia, il genocidio dell'amico Gheddafi. E questa parola genocidio, con quattro foto di distruzioni, è anche la copertina, la prima pagina dell'Unità. Anche il Messaggero: Libia in fiamme, bombe sulla rivolta. Il Manifesto: c'è un uomo che porta in braccio un bambino, pare un bambino tutto avvolto, non si sa, forse è un bimbo morto. Massacro. Questo è il titolo: la rivolta libica arriva a Tripoli. Insomma, la situazione è davvero di grandissima tensione e tra l'altro cercheremo anche di darvi le notizie che arrivano dalle agenzie. Sapete che non sono tantissime le notizie che provengono dalla Libia, sono pochissimi gli inviati che sono riusciti a entrare nel paese. Io però voglio partire dalle solite segnalazioni di diverso taglio. La prima viene dalla Stampa, pagina 21, è una bella storia. Una bella storia che vi racconto dalla provincia di Agrigento. Gli studenti imparano il Braille per scrivere alla compagna cieca. Agrigento, le maestre vincono la sfida, l'alfabeto insegnato al dopo scuola. Come detto, una bella storia che Lorenzo Rosso racconta, pagina 21, di una bimba di 7 anni, cieca dalla nascita, ma con tanta voglia di sentirsi normale. Si chiama Cristina. E il tutto si svolge ad Acquaviva, un centro minerario di poco più di 1000 abitanti in provincia di Agrigento. E in questo piccolo paese, dove tutti si conoscono, dove anni fa non era sfuggito il fatto che una coppia del luogo ha generato una bambina affetta da disabilità visiva dalla nascita, che hanno fatto i compagni di classe di Cristina, aiutati ovviamente dalle loro maestre? Per mesi e mesi, nei pomeriggi, durante le ore di dopo scuola, hanno preso confidenza con l'alfabeto Braille. Hanno imparato a leggere, hanno imparato a scrivere coi segni, anche con una certa sicurezza, e al compleanno, giorni fa, di Cristina, hanno voluto mettersi alla prova. A sorpresa, hanno consegnato ognuno una letterina nella quale hanno scritto in Braille alcuni pensieri di auguri. Insomma, per la prima volta Cristina è riuscita a leggere e ad apprezzare queste letterine scritte dai propri compagni, tanto che l'Unione Italiana Ciechi ha apprezzato talmente questa iniziativa che nei prossimi giorni ha deciso di organizzare la giornata nazionale contro la cecità proprio ad Acquaviva, per far conoscere meglio a livello nazionale questa straordinaria esperienza fatta dai bambini di questo piccolo comune siciliano. E allora, questa bella storia è raccontata dalla Stampa a pagina 21. Voglio invece saltare su Repubblica, dove Jenner Ermeletti racconta in prima pagina, e poi prosegue all'interno a pagina 25, quello che è titolato così: in gita a casa del Papa. È il turismo religioso che vale 3 miliardi l'anno. È sempre più boom di visitatori che vanno, che cosa, a vedere? Beh, le case natali dove sono nati i papi. Beh, certo, quella più famosa è quella di Vadovice, di Giovanni Paolo II, di Papa Wojtyła, ma racconta Repubblica, si parte invece da dove? Da Canale d'Agordo, in provincia di Belluno, dove c'è invidia da parte del sindaco Rinaldo De Rocco, e questo è il comune dove nacque Papa Albino Luciani. Ebbene, il sindaco di questo comune, Rinaldo De Rocco, Dice: sono invidioso. L'anno scorso è venuta a trovarci Eva Filipiak, il sindaco di Vadovice, dove c'è la casa natale di Papa Wojtyła. Lì si stanno preparando ai festeggiamenti per la beatificazione del 1 maggio. E sapete quanti pellegrini ogni anno arrivano a visitare la casa Vadovice di Giovanni Paolo II? 1 milione di pellegrini. Allora il sindaco dice: avete capito, si riempiono i ristoranti, gli hotel, i negozi dei ricordini. Da noi invece Papa Luciani per troppo tempo è stato quasi dimenticato, ma adesso ci siamo svegliati. Ed ecco allora l'iniziativa da parte di Canale d'Agordo con il sindaco, che dice: voglio che diventi una meta importante del turismo religioso. Se arrivasse anche solo il 10% di quelli che vanno a Vadovice, 100.000 persone, non 1 milione di persone, 100.000, saremmo già contenti. Ovviamente c'è un po' di contestazioni, perché c'è chi dice che insomma vanno ricordati i papi anche nei loro casi natali solo nel ricordo delle persone che magari ne portano ancora la testimonianza, ne portano i ricordi. C'è la famiglia Luciani, per esempio, che non ha mai voluto che la casa diventasse un luogo di pellegrinaggio, e ci sono i sindaci invece che vedono questa come una possibilità anche per fare un po' di cassa. Insomma, tutto raccontato da Repubblica, pagina 25, e con richiamo in prima pagina: in gita a casa del Papa, ora il turismo religioso vale 3 miliardi l'anno, e il racconto di ciò che stanno facendo in provincia di Belluno a Canale d'Agordo per cercare di valorizzare la casa natale di Papa Giovanni Paolo I Albino Luciani. Ci fermiamo la pubblicità e poi ripartiamo certamente dalla Libia, l'attualità. In primo piano. E allora oggi, se comprate qualsiasi quotidiano, vi dovete orientare tra i tantissimi articoli dedicati alla situazione in Libia, una situazione in continua evoluzione. Per esempio troverete notizie su il destino di Gheddafi, dove è finito Gheddafi. In realtà nella notte Gheddafi è apparso per 22 secondi alla TV libica dicendo: sono in Libia, non in Venezuela come qualcuno ha detto, e ha definito notizie di cani rabbiosi a cui non credere, quelle date dalle TV, dai pochi testimoni che sono riusciti a entrare nel paese. La più attiva in questo è Al Jazeera. Sta di fatto che in realtà la situazione è davvero drammatica. Addirittura si registra il vice ambasciatore della Libia all'ONU che ha detto: è un genocidio. Cioè, avete capito, il vice ambasciatore all'ONU della Libia dice: è in corso un genocidio. Ci sono le defezioni di alcuni membri dell'esercito. Per esempio, a pagina 3 di Repubblica viene raccontata da Giampaolo Cadalanu quello che due colonnelli, ai quali era stato dato l'ordine di sparare con missili sulla folla di Bengasi, hanno deciso invece di fuggire dopo il decollo da Tripoli. Invece che andare a sparare sulla folla a Bengasi, sono andati a Malta, dove sono atterrati. Sparare sui connazionali, questo è il disonore più inaccettabile per un militare. Due colonnelli dell'aviazione libica non ce l'hanno fatta. L'ordine era appunto bombardare la folla di Bengasi, ma loro, partiti vicino a Tripoli, hanno invece fatto rotta verso Malta con i loro Mirage, e agli stupefatti maltesi hanno dichiarato: non siamo atterrati in Italia, temevamo ci avrebbero rispedito in Libia. Insomma, hanno disertato piuttosto che sparare sulla propria popolazione. E insomma, i racconti ovviamente molto poco particolareggiati, perché ripeto, è tutto chiuso, è tutta blindata la Libia, non è facile entrare. Raccontano però di massacri. Devo dire che tra i quotidiani l'unico che firma dalla Libia, da Musaid, è Repubblica, con Pietro Del Re. È lei il giornalista senza visto? Entri pure, venga a vedere la nostra rivoluzione, ma non si dimentichi di raccontare dei martiri di Tripoli che oggi il Rais ha fatto massacrare con i raid aerei. Così il doganiere libico, un faccione gioviale, mani spesse, di fronte alle nostre perplessità, esplode in una risata ragliante. Poi, con gli occhi che gli brillano, aggiunge: fino a Bengasi la strada è libera, perché i cecchini di Gheddafi li abbiamo ammazzati tutti, e stia tranquillo, li abbiamo anche seppelliti. Sentirà solo solo il profumo della libertà. Ecco qui come Pietro del Re racconta l'inizio di questa avventura nella Libia, di questo viaggio partito appunto da Bengasi, dunque dall'est della Libia, per cercare di arrivare verso Tripoli. E c'è anche molto delle analisi, ovviamente, che è un po' il tema che è il nostro sondaggio, dei rapporti tra Italia e Libia. Intanto la diplomazia italiana ieri ha parlato con Frattini, il ministro degli esteri a Bruxelles. L'Unione Europea non può decidere il futuro del Rais, questo ha detto Frattini. Berlusconi invece ha condannato le violenze. C'è da dire che c'è un titolo abbastanza polemico, e un po' le polemiche sono di anche di vari giornali, a dire c'è stato un silenzio abbastanza prolungato dell'Italia per alcuni giorni, no? La famosa frase di Berlusconi all'inizio: non voglio disturbare Gheddafi perché la situazione è in divenire. Per esempio Avvenire titola polemicamente, mi sembra di poter dire così, Berlusconi alla fine condanna le violenze, no? Questo alla fine, cioè a registrare una sorta di silenzio per alcuni giorni. C'è anche molti dei resoconti del rapporto tra Italia e Libia, un rapporto, sapete, molto complesso, molto complicato, storicamente lungo, ex colonia italiana, poi tutta la storia del risarcimento, la storia dei rapporti tra Gheddafi e i vari governi, la vicenda dei missili, la vicenda del riavvicinamento. Gheddafi prima considerato un terrorista, poi considerato ora sempre più un partner strategico economicamente, geograficamente, politicamente, anche perché in grado di controllare l'immigrazione, fino agli ultimi accordi che hanno fatto molto discutere. E allora, da Pisanu ad Alema, quei politici in fila nella tenda beduina, Goffredo Buccini sul Corriere della Sera racconta, pagina 10, proprio i rapporti storici di tutti questi decenni, 40 anni al potere per Gheddafi, con i vari governi italiani che sono succeduti, mentre sul Fatto Quotidiano Giampiero Gramaglia racconta quelli che sono invece un po' l'epilogo, vale a dire quello che viene definito il trattato capestro che ci lega al Rais. Questo a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Giampiero Gramaglia parla di questo trattato di amicizia, la cui responsabilità politica ricade su tutti i partiti che lo ratificarono nel 2009, maggioranza e PD a favore, Italia dei Valori, UDC e Radicali contro. Il trattato firmato a Bengasi il 30 agosto 2008, un accordo che, scrive Giampiero Gramaglia, costringe l'Italia ora al silenzio. Il Fatto Quotidiano ripropone, per esempio, in prima pagina, stilizzato, il famoso, il celebre baciamano che Berlusconi fece a Gheddafi in uno degli incontri, mentre il Foglio raccoglie la testimonianza di De Michelis, che è ex ministro degli esteri, che dice: per la verità io sono l'unico politico italiano, destra, sinistra, che non ha mai avuto rapporti col colonnello Gheddafi. Diventai ministro degli esteri nell'89, è vero, dovetti andare perché obbligato da Andreotti e Craxi, da Gheddafi, peraltro per essere trattato a pesci in faccia, secondo la famosa vignetta di Forattini che mostrò un Gheddafi che trattò, proprio schiaffeggiava con un pesce il ministro degli esteri De Michelis. Perché? Perché invece di riceverlo, lo fece ricevere appunto dal ministro della pesca libico. E dice De Michelis: mi fecero aspettare 2 giorni, dovevo attendere il Rais, ma alla fine delle 48 ore dissi: io me ne vado, e me ne andai senza incontrarlo. Ovviamente ci sono anche tutti gli sviluppi, tra l'altro ce ne occuperemo noi nel sondaggio, se ne occuperà anche Oscar Giannino oggi alle 9, tutti gli sviluppi di quelli che sono gli affari italiani in Libia. È il partner commerciale, l'Italia, per la Libia più importante. E allora al Sole 24 Ore, sia pagina 4, gli affari italiani di Gheddafi, Roma teme per gas e petrolio, in bilico anche tutte le partecipazioni libiche. C'è tutto anche un focus su quello che è stata la giornata di borsa molto difficile. Sapete che i fondi della Libia hanno anche delle importanti partecipazioni nelle aziende italiane, aziende molto importanti, e anche le possibili ripercussioni sul petrolio. A pagina 5 Sissi Bellomo racconta di come la crisi libica abbia già fatto volare il petrolio, col Brent che ha superato quota $105 ai massimi del 2008, l'oro scatta $1,400 l'oncia. L'effetto di Tripoli è che Piazza Affari crolla del 3,6%, questo racconta sempre a pagina 5 Maximilian Cellino, con soprattutto appunto Impregilo, Unicredit, Eni, Ansaldo, cioè le aziende compartecipate anche dalla Libia. Insomma, la situazione è anche una situazione di riverbero economico non certamente semplice ed è in continua evoluzione. Le ultime che danno le agenzie, così non leggo dai giornali, ma dalle agenzie, che il ministro La Russa ha detto poco fa che è pronto anche un aereo C-130 per il rimpatrio di italiani dalla Libia. Insomma, come vedete, è una situazione molto molto complicata, scene di fine regime. Noi ne parleremo alle 8.30 con il nostro sondaggio, che potete già votare su Radio24.it. Vi chiediamo, secondo voi, se è davvero meglio ed è giusto appoggiare il popolo, e quindi una Libia senza Gheddafi, o se vi spaventa una Libia senza Gheddafi e in qualche modo sia meglio una Libia con Gheddafi, perché con tutte le sue contraddizioni è anche in qualche modo una fonte di sicurezza. Ovviamente ciò che si teme, per concludere l'ampia pagina della rassegna dedicata alla Libia, ciò che si teme moltissimo è anche la questione degli sbarchi. Gli sbarchi degli immigrati, perché leggiamo il Corriere della Sera, pagina 9, maxi tendopoli in Sicilia per gestire gli sbarchi. Secondo le previsioni più catastrofiche potrebbero arrivare 1 milione di clandestini. Questa è la stima del Viminale, racconta Fiorenza Sarzanini. Perché? Perché la Libia è il terminale da cui per anni sono partiti tutti i migranti che da tutto l'Africa, anche dalla costa ovest dell'Africa, fanno queste rotte che portano poi attraverso il Chad e il deserto alla Libia, per poi approdare alle coste della Libia e partire verso l'Italia. Ebbene, oggi ci saranno riunioni, anche stasera, riunioni al Ministero degli Interni per cercare di affrontare questa possibile situazione che, ripeto, potrebbe arrivare anche a previsioni le più drammatiche di 1 milione di persone in fuga non tanto dalla Libia o di passaggio dalla Libia, visto che le coste ora rischiano di non essere più controllate. Oh, se dovessimo guardare alle cose nostre invece, e se guardiamo alle cose nostre dei giornali, della politica, siamo sempre fermi lì. Insomma, i temi sono sempre quelli: il processo a Ruby, cioè il processo al Premier per la vicenda Ruby, con il Sole 24 Ore, pagina 22, racconta di come ci sia il bivio da parte dei legali, fare il conflitto di attribuzione del processo oppure contestare l'improcedibilità. C'è anche la tentazione da parte di Berlusconi, secondo Repubblica, di fare una sfida ai PM: vado ai processi e sollevo il conflitto. Insomma, non hanno ancora sciolto il dubbio gli avvocati su come sarà la difesa da parte di Berlusconi. Tra l'altro, alle 8.20 avremo ospite per l'intervista l'avvocato Gaetano Pecorella, onorevole. È stato anche in altri procedimenti, non in questo, l'avvocato di Berlusconi, ma è uno che, insomma, dal punto di vista legale Berlusconi l'ha seguito moltissimo. Cosa farà Berlusconi e cosa faranno i suoi legali non si sa per il processo, si sa cosa fa Ruby. Ruby andrà a Vienna, se vi interessa, anche sulla stampa, pagina 9, a Vienna. A fare che? Al ballo delle debuttanti, perché ogni anno al ballo delle debuttanti c'è un riccone, tale Richard Lugner, palazzinaro di Vienna, che il giovedì grasso, da oltre 20 anni, si presenta al ballo dell'Opera di Vienna al bacio di una donna trofeo, una vera e propria donna trofeo, affittata a caro prezzo per l'occasione. E quest'anno ha ricevuto i no di Meryl Streep, Sienna Miller, Bo Derek, che alla fine voleva 25.000 euro in più, oltre al cachet pattuito. E allora questo palazzinaro di Vienna ha detto: e che faccio? Si è buttato sull'attualità e ha detto: ma perché no? Ingaggio per l'occasione Ruby. E Ruby farà dunque il ballo delle debuttanti, entrerà al fianco di un signore di 78 anni, questo palazzinaro di Vienna, questo il 3 marzo, il momento clou, il giovedì grasso, il giovedì di carnevale, ed ecco qui, Ruby non si sa quanto prende, perché l'ospite dice quando si invita una signora si sa se quanto ci costa è un segreto che abbiamo sempre mantenuto. Ironizzano i giornali austriaci dicendo che per il vestito, visto che non si richiederà molta stoffa, non si spenderà tanto. In primo piano. L'altro aspetto di cui si dibatte da giorni nella politica e che rimane anche oggi sui giornali è questo dei cambi di casacca al Parlamento. Il Cavaliere prepara l'ultimo attacco a Fini, rallenta sul rimpasto, scrive il Corriere della Sera, ma la vera notizia da Repubblica, che però mi sono perso, ma Insomma, la notizia è questa. Pare che oggi 7 finiani lasceranno il gruppo di Future Libertà. Anche per il Corriere, fuga da Future Libertà al Senato. Viespoli, forse Urso, forse Ronchi, dice Repubblica, che addirittura potrebbero Urso e Ronchi tornare al governo, visto che i loro posti non sono occupati. Cioè, viene dato un Fini ormai, o un gruppo dei finiani ormai quasi allo sbando, bisogna dire, nel senso che secondo Repubblica rimarranno alla fine 3 senatori con Fini. Insomma, per Repubblica è il giorno più difficile, il giorno più complicato per Gianfranco Fini, che potrebbe perdere 7 suoi parlamentari. È anche un momento complicato dal punto di vista del clima politico in Italia, certamente. Intanto il giornale mette in prima pagina questa vicenda di questo ordigno che è stato trovato ieri davanti nel pieno centro di Milano, davanti a un Eni Store, un ordigno che poteva anche esplodere e che non è esploso solo per un caso. E tra l'altro il giornale punta su quello che viene definito l'odio degli anticavalieri, se la prende col Fatto il giornale, perché il Fatto Quotidiano ha fatto un sondaggio online dicendo: indicate quali sono i personaggi politici che riescono a giustificare l'ingiustificabile, vale a dire Berlusconi per il Fatto Quotidiano. E nel mirino al primo posto è Daniela Santanchè, al secondo posto chi c'è? Non lo so, al secondo posto c'è Daniele Capezzone, poi il direttore di Libero Belpietro, poi la deputata del PDL Anna Maria Bernini, il capogruppo della Camera Cicchitto. Insomma, per il giornale questa è una campagna di odio, gli anticavaliere, bruciamo i berlusconiani. E questa campagna di odio viene associata anche graficamente a quello che è la bomba. I terroristi ora alzano il tiro, disinnescata una bomba all'Eni. Insomma, un accostamento certamente non farà piacere a quelli del Fatto Quotidiano, come dire, insomma, che questo clima di tensione, questo clima di odio poi rischia di portare a quello che è successo ieri con il ritrovamento di un ordigno. Cosa c'è molto? C'è anche molto di cronaca ancora della vicenda Affittopoli, di cui noi ci siamo occupati ieri. Ieri sono state svelate le case che sono state vendute da il Pio Albergo Trivulzio, sono state svelate anche gli immobili, a chi vanno gli immobili di altri enti come per esempio il Policlinico. Si sono fatte nuove scoperte, per esempio Repubblica in affitto l'assessore delle tangenti, ve lo ricordate? Prosperini, quello che ce l'aveva sempre con gli immigrati, Chapel Barkin, Chapel Camel e andate a casa, ma che voleva rispedire tutti di me. Poi è stato arrestato anche un anno e mezzo fa per una vicenda di tangenti, credo, e ora si è scoperto che è in affitto in una di queste case. Anche per il Corriere, Policlinico, case a stilisti, e poi questo che mi stupisce è all'Andrangheta, cioè nel patrimonio del Policlinico pare ci fosse un intero fortino di case date da 30 anni a famiglie come i Cosco e i Carvelli, che racconta il Corriere della Sera sono famiglie insomma vicine all'Andrangheta. Per il Libero, questa è l'apertura di oggi, Libero è uno dei pochi giornali che non apre sulla Libia, ecco le case rubate ai vecchi, Libero le ha trovate, con Maurizio Belpietro che fa anche tutto un editoriale sulla vicenda di Giuliano Pisapia, la cui compagna ha vissuto per 20 anni in una di queste case affittate dal Pio Albergo Trivulzio. Ebbene, Libero dice: eccole qua, le case rubate ai vecchi, ve le diciamo tutte, appartamenti venduti con 1 milione di sconto, prezzi da outlet. Tra i furbetti viene messo anche il responsabile dei Verdi di Milano, Enrico Fedrighini, uno che attacca sempre con crociate contro lo smog. Ora l'ultra ambientalista rischia di essere travolto da Affittopoli, infatti si è diffusa questa lista e si è scoperto che vive in un bel appartamento da 120 metri quadri, anche lui con affitti a prezzi non di mercato. Vabbè, trovate ancora molto, io voglio concludere però con il racconto che troviamo sulla Stampa dedicato a Oriana Fallaci. È un articolo di Maurizio Molinari, è il racconto dell'oncologo italiano che ha curato Oriana Fallaci. Mi chiese di regalarle 2 anni di vita per finire il suo romanzo. È un bel racconto che trovate a pagina 15, una bella intervista con Oriana Fallaci, che dice questo oncologo Virgilio Sacchini, che l'ha curata a New York, era convinta di poter sconfiggere anche il cancro. La prima volta mi arrivò una telefonata del console italiano che mi chiese di visitare un'amica personale senza dirmi il nome, spiegando che gli incontri sarebbero stati segreti. E così iniziarono i miei incontri con Oriana Fallaci. Il primo durò ore. Ero lì da 3 ore, quasi sempre ad ascoltare, non me ne ero accorto. Ero conquistato da Oriana Fallaci, che gli diceva: io vivo da sola, la mia è una solitudine conquistata. Mi parlava dell'amore per Alekos Panagoulis, della sorella, dei nipoti che si rammaricava di vedere raramente, e poi mi diceva sempre: lei dottore mi deve aiutare, sto scrivendo un romanzo, per me sarà l'ultimo, una saga, la storia della mia vita, la storia della mia famiglia, ho concluso le ricerche, mi deve dare qualunque cosa per stare bene, perché io devo scrivere quest'ultimo romanzo. Non accettava, racconta questo oncologo, la malattia, cercava di dominare il cancro, era convinto di averlo sviluppato nel 91 durante la guerra in Iraq, dove aveva respirato i gas tossici, e anche quando ormai era diventata quasi cieca, con la vista ormai debolissima, cercava di leggere, e quando gli occhi erano troppo stanchi c'era qualcuno che lo faceva per lei, se non poteva scrivere dettava. Insomma, il racconto degli ultimi anni, insomma, della malattia di Oriana Fallaci, fatta dal suo oncologo che l'ha curata a New York, Virgilio Sacchini, lo trovate sulla Stampa, pagina 15. Ora ci fermiamo, c'è il giornale radio. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci qui, voglio salutare per la nostra intervista l'onorevole Gaetano Pecorella del Popolo della Libertà. Buongiorno, onorevole. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. L'onorevole Pecorella è stato anche in tanti procedimenti l'avvocato del premier Berlusconi, non lo è in questo procedimento, quello del 6 aprile, ma insomma una chiacchierata con lei è sempre utile. Onorevole, intanto le chiedo, secondo lei Berlusconi dovrebbe difendersi nel processo o dal processo? Ma guardi, questa è una distinzione che oramai è entrata nell'uso comune, ma è più che altro, diciamo, uno slogan, perché ci si difende nel processo utilizzando tutti gli strumenti che il codice mette a disposizione della difesa. Tra l'altro tutti sanno che gli impegni di un nuovo politico con Berlusconi sono molti, per cui quando si dice ma il legittimo impedimento, diciamo l'impedimento che possono avere altri cittadini, nel suo caso gli impedimenti sono molto maggiori, però ci si difende nel processo con gli strumenti processuali. Perché oggi si legge delle possibilità che ci sono, il bivio, i legali dovranno decidere tra aprire un conflitto di attribuzione oppure chiedere l'improcedibilità, oppure appunto porre il legittimo impedimento che qualunque cittadino può porre per un qualsiasi procedimento. Cioè l'idea è che il 6 aprile che succederà? Ma guardi, io credo che la questione del conflitto di attribuzione e dell'improcedibilità non significa difendersi dal processo, ma seguire le regole che il codice prevede e la prassi parlamentare prevede, cioè tutte le volte in cui vi è un ministro, maggior ragione per il Presidente del Consiglio, che è accusato di un fatto, se vi sono anche diciamo remote ragioni per ritenere che sia riconducibile alla sua funzione, alla sua qualità, chiamiamolo come vogliamo, deve essere il Tribunale dei Ministri che decide se si tratta o meno di reato ministeriale. Quindi io credo che sia una legittima strada quella, cioè, di doveva essere così secondo lei, nel senso la Procura di Milano, se uso un termine improprio, ha scippato il processo al Tribunale dei Ministri per lei? Direi di sì, perché diciamo ci sono, c'è persino una sentenza della Corte Costituzionale che afferma che nell'ipotesi in cui sia sotto processo un ministro sta al Tribunale dei Ministri e non al singolo magistrato, altrimenti saltano tutte le garanzie. Saranno giuste o sbagliate, se ne potrà discutere, ma certamente i ministri hanno una procedura particolare. Però il GIP di Milano ha deciso in maniera diversa, cioè ha detto che si può, è legittimo che il processo si tenga a Milano. Guarda, io trovo veramente singolare due cose. spero di non essere troppo di parte, ma due cose. La prima è perché non si è pensato di investire il Tribunale dei Ministri. Evidentemente si è voluto tenere il processo a Milano e tenere il processo nelle mani di chi lo stava gestendo, istruendo. E la seconda cosa, si parla oramai del deposito degli atti anche per l'altro troncone di processo, qual è il motivo per cui si è avuta l'urgenza di mandare a giudizio quando il processo unico sarebbe stato anche più comprensibile. Quindi da questo punto di vista effettivamente degli strappi ci sono stati, non mi si venga a dire che era per la celerità del processo, la ragionevole durata del processo. E lei cosa ci vede dietro? No, perché lei ieri ha detto le leggi sono buone, ha ragione Napolitano, il problema è chi le applica, cioè il problema sono i magistrati o alcuni magistrati. Ma guardi, io credo che certe volte chi ha in mano un processo viene preso da una specie di amore per il proprio processo, di passione, e finisce poi per fare delle forzature come queste. Mi domando, lo osservavo anche nell'intervista che sta lei richiamando adesso, mi domando come ha potuto un giudice in due giorni leggere migliaia e migliaia di carte per decidere che la prova è evidente, che è il presupposto del giudizio. Ma cosa dobbiamo pensare, che non le abbia lette? No, io penso che si è basato su quello che affermavano i pubblici ministeri nella loro richiesta, cosa purtroppo abituale in un sistema dove giudici e pubblici ministeri sono la stessa famiglia, come tutti sappiamo. Quindi queste poi si dice ma difendersi dal processo, ma se ci sono delle forzature in un senso si finisce poi dar parte della difesa, ma non è un caso unico, insomma, vuol dire ci sono casi storici ben noti in cui la difesa si difende dal fatto di non vedere applicate le leggi. Cioè uno vede delle forzature e cerca di forzare dalla sua parte, dice, no? Cioè, e diventa uno scontro tra arieti. E cerca di difendersi da quelle che almeno alla difesa appaiono evidentemente come forzature. Nessuno mette in discussione che i pubblici ministeri di fronte a un fatto che ritengono costituire reato debbono istruire le indagini, sempre applicando con grande rigore le norme che il nostro sistema prevede, tra comunque, cui quella relativa al Tribunale dei Ministri. L'ultima cosa, vabbè, il GIP ci ha messo in realtà 5 giorni, però lei dice erano troppe le carte da leggere, 5 giorni o 7 giorni. Mi pare che siano un po' meno, il fatto che arrivino, vengano lette, ma comunque voglio dire, valutare un caso come questo, peraltro si dice che si poteva fare l'immediato perché erano meno di 90 giorni, sì, ma le inchieste sono partite molto prima, le carte utilizzate non sono quelli degli ultimi 80-90 giorni che è il limite per chiedere l'immediato, ma tutte le carte dell'inchiesta precedente. Allora anche questo diciamo non è che siano fatti di per sé drammatici o gravissimi, non hanno torturato nessuno, però sono fatti che lasciano un'ombra sulla rigorosa applicazione delle leggi, soprattutto in un sistema che vede rarissimamente fare ricorso al giudizio immediato. Sì. E soprattutto se fa ricorso al giudizio immediato quando viene trovato con la pistola fumante in mano. Un'ultima domanda, nel salutare e ringraziarla, Berlusconi è un perseguitato secondo lei dalla magistratura o da alcuni magistrati? Guardi, l'unica cosa che le posso dire è che dal 1994 ad oggi basterebbe fare un elenco dei processi. Sì, ne ha avuti tanti. Ne ha avuti tanti, dopodiché io non posso dire che la magistratura perseguiti nel senso che volutamente vuole mettere sotto processo qualcuno. Il fatto sta che sono sempre gli stessi magistrati, sempre di Milano, e per tutti i processi, o perché sono stati ripescati fatti vecchissimi, qualcuno anche già chiuso in passato, tipo il lodo Mondadori ripescato, o perché è apparsa infondata l'accusa, alla fine con tutti questi processi la magistratura è rimasta in mano un pugno di mosca. Beh, c'è stata qualche legge magari che ha favorito le famose leggi ad persona, ma anche lei le aveva criticate in passato qualche volta, no? Ma sì, no, ma io guardi, penso che le leggi devono essere universali, cioè anche se talvolta nascono da situazioni contingenti. È stata fatta la legge Valpreda, no? Tanto per citarne una, ed è stata fatta, sono state fatte altre leggi per tenere in carcere pericolosi criminali che stavano per uscire, e quindi sono stati cambiate, è stata cambiata la durata della custodia cautelare. Quindi ogni tanto si può fare qualche legge? No, non si può fare, è che ci si ritrova, io sono contrario alla legge fatta apposta, è che quando si fanno leggi così è perché c'è qualcosa nel sistema che non funziona. Se si arrivano a fare il processo per cui sta per uscire un pericoloso criminale, poi si fa la legge. È stato sbagliato non fare il processo in tempo. La ringrazio, buona giornata. Grazie, onorevole Gaetano Pecorella, buongiorno. Del Popolo della Libertà, avvocato in tanti procedimenti del Premier, non in questo, ma ci ha spiegato qualcosa, una chiacchierata immagino utile. Vi rimando a che cosa? Dopo la pubblicità, per il nostro sondaggio, parliamo di Libia, parliamo della stretta attualità. Vi chiediamo, sì, anche provocatoriamente se volete, ma allora è meglio un'Italia, per l'Italia è meglio una Libia con Gheddafi o senza Gheddafi? Votate su radio24.it oppure chiamateci 800 24 0024, gli sms al 349 238 6666. Tra poco 24 mattino. Eccoci qua alle 8:34 minuti. Parliamo di Libia e capisco che molti già ci scrivono: ma come? Vi anche chiedete se si possa stare, se si possa essere partner, se si possa essere vicini a un assassino. Così ormai viene definito Gheddafi. È lo stesso Gheddafi che fino a pochi mesi fa, oggi troverete sui giornali tutte le foto, vari governi che si sono succeduti, hanno stretto le mani, hanno stretto anche accordi importanti. È lo stesso Gheddafi, la stessa Libia che investe nella borsa italiana, che investe nelle aziende italiane, la stessa Libia nella quale aziende italiane sono presenti. È questa Libia, è questo Gheddafi che, stando ai resoconti dei giornali, spara sulla folla o fa sparare sulla folla in rivolta. Allora, di Libia parliamo nel nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Con questa domanda che abbiamo posto così, capisco che è brutale, ma per l'Italia è meglio una Libia con Gheddafi o una Libia senza Gheddafi? Oggi leggiamo dal Corriere della Sera: il Viminale prepara e prevede, nella peggiore delle ipotesi, con le coste libiche non controllate, l'ipotesi drammatica di 1 milione di migranti che potrebbero partire dalle coste della Libia per approdare dove? Beh, il primo approdo naturale è l'Italia. Voglio salutare il sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica, buongiorno e ben ritrovato Mantica. Buongiorno a voi. Così come Piero Fassino, il Partito Democratico, fa parte della Commissione Affari Esteri, buongiorno Fassino. Buongiorno. Eccoci qua. Io intanto voglio chiedere al senatore Mantica, c'è un rimprovero che viene lanciato dai giornali: la diplomazia italiana troppo passiva, una diplomazia italiana troppo lenta nel reagire. C'è quella frase di Berlusconi: non voglio disturbare Gheddafi, che ha fatto molto discutere. Siamo troppo reticenti a intervenire, Mantica? Ma questo è un giudizio politico e come tale va accettato. Io da parte del governo rispondo che abbiamo deciso, perché il problema, l'ha detto lei, non è facile ed è molto complicato e va inserito quanto Medio Oriente, di rispondere insieme agli europei e in concerto con gli europei, cosa che è stata fatta appena gli europei si sono ritrovati. Peraltro domenica sera a Bruxelles è iniziata la riunione dei ministri degli esteri dei 27 paesi membri dell'Unione Europea, e lunedì c'è stata la risposta ufficiale dell'Unione Europea sulla condanna delle violenze da parte di Gheddafi, anche perché, lo ha accennato pure lei, non è che noi con Gheddafi abbiamo solo un rapporto di relazione fra due stati. La Libia è praticamente, come dire, in casa, qualche centinaia di chilometri dalle nostre coste. C'è un problema di immigrazione, c'è un problema di equilibri interni di mercato, c'è un problema di 30% tra gas e petrolio come necessità di materie prime del nostro paese, che viene dalla Libia. Questo non è una scelta né del governo di centrodestra né onestamente di quello di centrosinistra. La Libia è qua vicino, cioè è un nostro. Questo sì, però c'è anche un Gheddafi che, stando alle cronache, fa sparare sulla folla. Allora il problema diventa. E questo è la mia domanda a tutti quelli che oggi lo condannano. 10 giorni fa qualcuno avrebbe dato con certezza che Gheddafi faccia sparare sulla folla, cioè le reazioni avvengono anche di fronte ai fatti. Forse nessuno se l'aspettava. Non è avvenuto in Egitto, non è avvenuto in Tunisia, non è avvenuto in altre parti. Voglio dire, evidentemente siamo di fronte a una cosa, come dire, essere non prevedibile, come non era prevedibile, appena se ne è avuta la certezza è stata la condanna totale e assoluta da parte del governo e da parte dei paesi europei. Sì. Del senno di poi sono piene le fosse, dicevano i nostri genitori, e quindi mi pare che occorra procedere con molta, oltretutto che Gheddafi dirige questo paese da 42 anni, sì, o 42, sì. Forse in 42 anni c'era ancora Moro nel 73 quando fece il primo accordo con Gheddafi, quindi è un pezzo di storia. Che la situazione sia molto complicata, vorrei chiedere anche all'onorevole Fassino, secondo lei come si deve muovere un governo italiano, ma voglio dire, pongo la questione anche a lei, perché poi è bipartisan il problema del rapporto con Gheddafi. Ma io penso che nessuno sottovaluti l'importanza delle relazioni economiche e commerciali, ma queste non possono essere un alibi per non vedere che in Libia c'è un potere dispotico, autocratico, che sta massacrando il proprio popolo, e di fronte a cose di questo genere credo che qualsiasi paese democratico non possa che reagire, qualsiasi persona civile democratica non possa che essere indignata. Io credo quindi che bisogna agire immediatamente per fermare il massacro e per aprire una fase nuova nella vita di quel paese. Peraltro c'è un sommovimento che sta attraversando l'intero bacino mediterraneo e tutti i paesi arabi, e in misura maggiore o minore tutti questi paesi sono caratterizzati da poteri autocratici, da poteri caratterizzati da un grado alto di corruzione. E sono oggi oggetto di una contestazione delle proprie opinioni pubbliche, in primo luogo dei giovani. Tutto questo non può non essere visto, può essere, diciamo, prigionieri di un realismo politico che rischia di scadere in cinismo. Però, onorevole Fassino, che fare è la domanda, nel senso che Gheddafi ha detto attenzione che vi arrivano un milione, o la cifra non ha detto, attenzione che vi arrivano i migranti sulle coste. Questo argomento qui è un ricatto forte. Questo argomento qui aggrava ancora di più la situazione, perché non è che l'Europa può stare sotto il ricatto di Gheddafi. Quindi io penso che se Gheddafi pensa di costruire le relazioni con l'Europa ricattando, l'unico modo per rispondergli è respingere questo ricatto. Cioè, massacra il suo popolo e ricatta l'Europa, e dovremmo anche stare qui a discutere se dobbiamo invitarlo a pranzo, ma mi pare eccessivo, no? Io intanto Farid Adli, buongiorno, voglio salutare anche lui, ci sta ascoltando. Anche a voi, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno al presidente Fassino e al sottosegretario Mantica. Tra l'altro Farid Adli è un giornalista libico, direttore di Ambamed, Notizie del Mediterraneo, collabora anche spesso con Radio Popolare, ma insomma oggi è qui con noi. Farid, intanto che notizie ci sono dalla Libia, le linee telefoniche sono saltate, e perché poco fa il regime di Gheddafi ha detto sono false tutte queste voci di massacri, allora è falso? È vero? Che sta succedendo in Libia? No, non è affatto falso. Io ho testimonianze dirette, perché a Bengasi, io sono originario di Bengasi, a Bengasi si può telefonare ancora, e ci sono dei contatti tra Tripoli e Bengasi tramite altri canali, e i colleghi giornalisti che io ho sentito a Bengasi parlano di sparatorie dalle elicotteri sulla folla, e che ci sono stati tentativi di spedire l'aeronautica su Bengasi, e due aerei che sono andati a Malta, erano l'equipaggio, si è rifiutato di bombardare la città di Bengasi, e lo stesso per quanto riguarda i due aerei che si sono atterrati all'aeroporto di Bengasi. Questo dittatore criminale che si trova attualmente sulla Libia e che ricatta l'Europa, ricatta l'Italia, non deve essere più accettato come un interlocutore, perché nell'interesse stesso, io non sto parlando della sofferenza della mia gente, della sofferenza della popolazione libica e basta, io non chiedo nessun altruismo alla società italiana e allo Stato italiano. Io chiedo che lo Stato italiano, io vivo in Italia da 45 anni, conosco molto bene la situazione italiana, conosco molto bene la situazione del mio paese, credo che nell'interesse della politica estera italiana garantire che ci siano un appoggio totale alle democrazie nella zona sud del Mediterraneo, perché solo con la democrazia è possibile garantire posti di lavoro. In Libia il 30% dei cittadini, dei giovani libici, sono disoccupati. Sì. E questa è una minaccia vera, reale. L'altra, anche la questione strategica delle relazioni con il futuro Stato libico, il futuro Stato tunisino, il futuro Stato egiziano, è nell'interesse della diplomazia italiana, del governo italiano, dello Stato italiano, avere una visione lungimirante, non stare zitti, non stare in silenzio, perché il silenzio è complice con questi massacri che avvengono. Anche se non è vero che non sia vero che abbiano utilizzato l'artiglieria, le immagini che sono arrivate da noi nelle nostre case tramite internet, che sono stati trafugati da media attivisti, sì, giovani, qua non c'è nessun pericolo islamico, non c'è nessun pericolo di somalizzazione del paese. La gente libica che io ho sentito ieri dicono: tutti noi vogliamo il paese unito. Migliaia e migliaia, centinaia di migliaia sono arrivati a Tripoli a respingere questo ricatto che il giorno prima il figlio di Gheddafi, il piano B, accettate quello che vi diciamo noi oppure è la guerra, è stato rifiutato dalla gente libica. Questa è una nuova generazione di giovani al di sotto dei 30 anni, alcuni sono minorenni. Vediamo che cosa ne pensa su questo. E affrontano con il petto lancia granate e le mitragliatrici antiaeree. Allora, su questo Farid, un capo di Stato di questo genere non può essere accettato. Io sentiamo dopo le informazioni sul traffico, voglio chiedere proprio questo, perché si è parlato di rischio di islamizzazione, ma in realtà a me pare di capire che anche tutte le rivolte che sono nel Maghreb sono date molto spesso anche dal fatto che non ci sia lavoro, molto spesso sono nate come rivolte del pane, della miseria, del costo delle materie prime. Però vorrei un'analisi su questo da Mantica e Fassino tra un attimo. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Detto che per il 70% di voi è meglio una Libia senza Gheddafi, cioè a questo punto bisogna abbandonare, insomma, questo regime che sta compiendo quello che sta compiendo. Voglio sentire Roberto da Roma. Buongiorno, ci ha chiamato Roberto. Sì, buongiorno. Sia rapido, per cortesia. Ai suoi ospiti. Dica. Io credo che davanti a un genocidio di questa portata occorre una risposta civile da parte di tutti coloro che sono contro il regime dittatoriale di Gheddafi. Quindi gli stati che hanno interessi economici, quale l'Italia soprattutto, altri paesi occidentali, immediatamente devono tagliare qualsiasi tipo di importazione, gas e metano, a costo di soffrire noi come cittadini. Ci tagliamo il gas e il metano. Congelare tutto. Ha sentito, sottosegretario Mantica, questa è la posizione dura e pura di dire di fronte a questo, ma che stiamo scherzando? Cioè, ancora stringiamo la mano o baciamo la mano, come girano ancora i video di Berlusconi? No, basta, chiudere tutto. Mantica. Fosse così semplice, credo che la politica estera sarebbe, come dire, un gioco per dilettanti. No, io credo, volevo rispondere invece alla sua domanda, c'è evidentemente una base di fondo che interessa questi paesi e che è comune. Attenti però, perché ogni paese poi ha una sua storia. La Tunisia è un paese povero mediamente rispetto ad altri, vive di manifatture e di turismo. La Libia, mi dispiace per il signore Letturi, la Libia è un paese ricchissimo che da 40 anni grosso modo vive delle royalties di petrolio e fa lavorare quel milione e mezzo di immigrati dall'Africa subsahariana, mentre in gran parte si vive di pubblica amministrazione, di elargizione da parte dello Stato. Questo spiega anche forse una delle realtà che sta vivendo oggi, diverso ancora l'Egitto. Venendo alla Libia, un primo problema, perché giustamente Fassino dice bisogna parlare, il primo problema mi pare che emerge dalla situazione libica, dov'è l'opposizione, cioè nel senso, mentre sia in Tunisia che in Egitto, in Tunisia perché alcuni pezzi del governo si proposero come transizione, in Egitto perché poi si è individuato lo Stato Maggiore dell'Esercito, ma prima ancora da El Baradei ad altri fratelli musulmani. Qui chi è il... Cioè voi avete timore, cade Gheddafi e che succede? Cioè con chi si parla? Le beduine del sud che si sono alleate con i senussi della Cirenaica contro l'esercito, ma forse l'esercito è spaccato. qualcuno dice che si è rotto addirittura gli equilibri all'interno della famiglia. Gheddafi, il figlio, sarebbe stato più aperto, più democratico, più riformista rispetto al primo ministro, più rigido conservatore. Cioè c'è ancora, come dire, una situazione magmatica in cui capire quali sono le forze con cui dialogare. L'invito fatto a Gheddafi, devi dialogare, devi avviare una stagione di riforme, è un invito fatto a Gheddafi, deve parlare poi con qualcuno, certo finché spara sarà difficile. Ma vediamo se su però questo... voglio dire ancora una situazione, sì, mi pare... magmatica, complicata. Ma su questo, onorevole Fassino, c'è effettivamente l'idea di un salto nel buio? Cioè abbandoniamo Gheddafi, nel senso, per quello che sta facendo, e poi, voglio dire, con che si fa dei rapporti con la Libia? Ma io penso che bisogna favorire l'apertura di una fase diversa e nuova, come sta avvenendo in Tunisia, come sta avvenendo in Egitto e anche in Libia. Io non credo che in Libia ci sia soltanto Gheddafi e non ci sia nessun'altra personalità significativa che possa diventare protagonista di questa transizione, di questo passaggio di fase. Si tratta di favorire e sostenere una evoluzione politica. Certo, quello che non possiamo assolutamente dire o sostenere è che, siccome la situazione è difficile, complicata e l'esito è problematico, allora va bene che ci teniamo Gheddafi con la sua autocrazia e il suo potere dispotico. Questo mi pare assolutamente inaccettabile. Io penso che, insomma, un paese democratico e una società democratica ha dei principi e dei valori che sono irrinunciabili. Mi pare che i nostri principi e i nostri valori in Libia in questo momento, da chi sta al potere, vengono travolti, e io credo che questo noi non lo possiamo accettare, e dobbiamo quindi agire e lavorare per creare le condizioni del superamento di questa crisi, ma il superamento di questa crisi, non l'arretramento a quello che c'era prima. Io, senatore Mantica, gliela ripongo diretta proprio questa domanda. Cioè, lei ha parlato del senno del poi, e questo giustamente, ma visto col senno del poi, 6 mesi fa la tenda beduina di Gheddafi, l'arrivo, le amazzoni, il baciamano, e anche per venire a quella frase "non lo voglio disturbare", cioè va tutto bene così? No, non va tutto bene così, voglio dire, ognuno ha le sue sensibilità, le sue attenzioni. Sicuramente c'è stato un momento che però va anche misurato nel fatto, e lo dico con grande franchezza, avendo fatto parte anche della commissione stragi, che avendo usato per 40 anni Gheddafi in vari momenti da parte dell'Italia, poi quando Gheddafi è arrivato in Italia io avevo scritto una relazione che è depositata alla commissione stragi, che diceva la moglie americana e l'amante libica, perché per 40 anni anche Gheddafi, è inutile facciamo finta di non conoscere, non vorrei ricordare Argo 16, non vorrei ricordare altre vicende strettamente legate ai rapporti italo-libici, però voglio dire, forse andava anche giustificato. Abbiamo accettato, io personalmente, voglio dire, lo sanno tutti per la mia posizione politica, non ho mai accettato che dovessimo ancora pagare, come dire, per i danni del colonialismo, ma su questo però ovviamente per il buon rapporto anche noi italiani siamo arrivati a dire che era giusto, avevamo fatto cose terribili, quindi a Gheddafi e al suo popolo dovevamo 5 milioni di dollari. Ma voglio dire, tutto questo mi pare nel rapporto di vicinato può essere spiegato. Oggi io do ragione a Fassino quando dice nessuno vuole accettare Gheddafi, semmai qualcuno lo accettava manco prima. Forse bisognerebbe ricordare il governo italiano, sì, lo dico a me stesso, che i soldi che dovevamo dare ai rimpatriati dalla Libia ancora non glieli abbiamo dati, perché poi la demagogia va bene, tagliamo pure il gas e il petrolio, però qualcosa e qualcuno ha pagato un duro prezzo per che Gheddafi abbia conquistato, certo, il potere, quindi almeno riconoscere quelli. Oggi il problema è capire quali sono i movimenti che sono in evoluzione. Sapendo che in Libia, e la Libia è un'invenzione coloniale italiana, esistevano la Tripolitania e la Cirenaica, sono passati 100 anni, gli eventi dimostrano che le due grandi regioni del paese hanno culture, tradizioni, storie, etnie profondamente diverse, hanno reazioni diverse. Gheddafi in Cirenaica è stato cancellato in 2 giorni, a Tripoli con atti di una violenza inaudita, però ancora sembra che il potere controlli, il che vuol dire che con l'esercito, che con il mondo commerciale e industriale libico evidentemente il regime tiene. Occorre capire l'evoluzione, capire quali sono gli interlocutori, spingere Gheddafi, che fino a prova contraria voglio ricordare, comunque il capo del governo libico, ci piaccia o non ci piaccia, e quindi anche l'Europa decide di fare pressioni perché si apre una nuova stagione. Però capire con chi? No, ma anche, voglio dire, fin quando c'è Gheddafi, la stagione l'apre Gheddafi, d'altronde l'invito è stato a Mubarak di ritirarsi, cioè il discorso, non dimentichiamo che poi esiste. Sì, la traduco io, non è che si può invadere la Libia e buttarlo giù, voglio dire, cioè bisogna vedere le situazioni e anche con un pragmatismo cercare di orientare le cose in modo che vadano nel modo migliore. Io mi devo fermare ringraziando il sottosegretario Mantica, Piero Fassino e Farid Adli. Mi scuso con Hassan da Verona che non è riuscita a intervenire, ma ne teniamo il numero se vuole intervenire tra poco, lo teniamo già per Oscar Giannino che intanto è qui e che ora alle 9, in 9 in punto, continua a parlare di Libia e l'attualità del giorno, e dunque passo, cedo il testimone a Oscar Giannino, ancora di Libia si parla, ringraziando Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Bescapè in regia con la penna nera che sventola, è un dente dolorante, c'è cioè un dente qua che si tiene le mani sulla faccia per un dente dolorante sempre più. Che dire, la linea a Oscar Giannino. Noi ci troviamo domattina alle 7:20. Andate su Facebook 24 Mattino.